Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Volevo manifestare la mia indignazione sulla falsa informazione che stanno facendo i media sul cosiddetto decreto Ronchi. Tutti parlano di privatizzazione dell'acqua, mentre tutta la legislazione italiana, dalla legge Galli fino al decreto legge 152 del 2006, noto come codice ambientale, garantisce che l'acqua è un bene pubblico e pubbliche sono e rimangono le infrastrutture attraverso le quali il prezioso liquido compie tutto il suo ciclo, dalla sorgente al cittadino alla restituzione all'ambiente. Quello che si sta cercando di rendere efficiente in Italia è solo il servizio pubblico, quello che consente all'acqua di arrivare ai nostri rubinetti. E l'efficienza si raggiunge solo attraverso una gestione privatistica, visti poi gli sfasci e l'inefficacia delle gestioni pubbliche. Questi signori che manifestano e i media che per deontologia professionale avrebbero il compito di informare correttamente i loro utenti, dovrebbero poi sapere che le società pubbliche in Italia non esistono più da anni. Esistono società a capitale pubblico, ma che sono anch'esse società di diritto privato che devono seguire logiche di profitto. Il decreto non fa che cercare di dare attuazione a una riforma ferma al palo dal 94, perché, a mio avviso, il potere politico non vuole perdere il controllo di questo mercato e degli appalti che ci girano intorno. Quello che mi dispiace è che certa politica e certi media continuino a prendere in giro il cittadino italiano disinformandolo. Sergio. Caro Sergio, il tema dell'acqua è certamente tale da suscitare non solo interessi, ma anche emozioni. L'acqua è un bene fondamentale per la nostra vita quotidiana ed è chiaro che può allarmare la possibilità che possa in qualche modo sfuggire al controllo dei cittadini. Ma in questo caso, come lei sottolinea, è del tutto fuorviante parlare di contrapposizione tra pubblico e privato, come se il pubblico fosse per sua natura positivo e il privato invece portatori di interessi particolari contrari a quelli della popolazione. E invece questo è proprio il caso in cui non è importante che il gatto sia bianco o nero, è importante che sappia prendere i topi. E così, sulla gestione dell'acqua, sia il pubblico che il privato possono essere inefficienti e costosi, oppure efficienti e razionali. È quindi fondamentale che il pubblico non tanto mantenga la gestione operativa, ma definisca le regole, garantisca il rispetto della qualità, imponga un trasparente meccanismo di fissazione dei prezzi. Mi permetta di aggiungere che l'Italia è uno strano paese. Il giudizio comune sulla burocrazia, sull'amministrazione, sulla gestione degli enti pubblici è generalmente negativo, anche per gli interessi politici in gioco. Ma nonostante questo, vengono viste con sospetto le aperture al privato, la possibilità che vengano introdotti elementi di mercato in settori tradizionalmente riservati allo Stato. E invece ci sarebbe bisogno di equilibrio e di capacità di sfruttare tutte le possibilità, magari superando una volta tanto le vecchie ideologie e guardando appunto all'efficacia degli interventi. Ma perché dobbiamo sentirci considerati come bimbi incapaci di pensare con la nostra testa, pronti ad assorbire ogni cosa ci venga propinata via radio, via TV, via cavo, via internet, via cellulare o tramite altro mezzo di comunicazione di massa? Perché non possiamo, come avviene in tutti i paesi civili, assistere a trasmissioni dove i politici dicono la loro, magari senza urlarsi addosso con insulti e atteggiamenti infantili? E provare con trasmissioni all'americana, dove un giornalista, preferibilmente fornito di veri attributi e non schiavo di questa o quell'altra corrente, martella di domande il politico di turno, incalzandolo su temi di stretta attualità e reale utilità per il popolo bue. Forse perché non esiste in questo momento un solo personaggio capace di rispondere con la preparazione dovuta? Se è così, certo è molto meglio urlarsi addosso in modo che nessuno capisca niente. Fare piazza pulita di Santoro, Vespa, Floris, Annunziata e tutti gli altri non sarebbe male, ma solo perché sono effettivamente molto, forse troppo schierati. Non è di loro che ho nostalgia, è della cara vecchia democrazia, quella che nel dizionario è definita come dottrina politico-sociale che si fonda sul principio della sovranità popolare. Avete capito bene? Sovranità popolare. Daniela. Da sempre sono stato abituato a votare sulla base della bontà dei programmi presentati, cercando di valutare anche la capacità di chi li proponeva. Oggi, ma non è la prima volta, Dovrei recarmi nel seggio per mettere una croce e un cognome alle amministrative concesso per esprimere una scelta di campo, una sorta di o con me o contro di me. Se è vero che la qualità di un Parlamento è anche espressione della qualità di un paese, nel nostro caso occorre riflettere. Domenica da Piazza San Giovanni ho ascoltato l'ennesima versione di quella scelta di campo, la riproposizione di una stagione di riforme, la riedizione di una persecuzione giudiziaria contro la libertà. Come si fa ad affermare che questo non è un paese libero? Sui quotidiani e sui settimanali si può leggere di tutto. È possibile ascoltare Di Pietro che in Parlamento dà del latitante a Berlusconi e sentire poi lo stesso Presidente del Consiglio che a pieni polmoni denuncia i complotti delle toghe rosse contro di lui e la sua parte politica. Se questa non è libertà, quando riusciremo a conquistarla, cosa potremo permetterci di fare? Forse potremo votare per delle idee vere, eque e veramente utili, non semplicemente colorate di rosso o di azzurro. Giancarlo. C'è da sperare che nei prossimi 3 anni questo governo, senza crearsi troppi scrupoli nei confronti dell'opposizione, che tanto in ogni situazione è per principio sempre contro e controproducente, dia inizio a quelle riforme per cui è anche stato votato. I primi 2 anni sono passati e diciamo che prima la crisi mondiale, scoppiata praticamente subito dopo la vincita elettorale, e poi il terremoto dell'Aquila, hanno succhiato risorse, energie, tempo e parole, tante parole, senza pensare a quelle dedicate alla fase del gossip sfrenato e alle accuse di stile mafioso. Il dopo elezioni regionali dovrà necessariamente segnare un periodo di cambiamento. Se lo aspettano gli elettori che votano questo governo, se lo merita il paese. E non si dovrà temere la reazione che inevitabilmente si scatenerà, anche perché ascolto spesso che la critica che arriva proprio da chi è contro questo governo è quella di non fare quello che i numeri in Parlamento gli permetterebbero di realizzare. Ed è vero. Troppo spesso, per non sollevare scontri e tenere calme le acque, si perde tempo e non si raggiungono i risultati promessi e necessari. Non ci sarà la collaborazione dell'opposizione, quasi certo, ma sarebbe anche una beffa nel suo rispetto non fare le cose per cui si è stati votati, ed in più sentire anche i rimproveri di chi si oppone. Credo che chi governa debba mettere in atto i propri punti di vista, anche se non piacciono agli avversari. Cosa significherebbe altrimenti vincere, se poi si rispettano i principi di chi ha perso? Giulia. Vi scrivo da un computer designed in Cupertino, California, and assembled in China. Nessuno si sognerebbe di etichettarlo come un portatile cinese. La mia mountain bike, invece, sul telaio riporta un Entirely Made in USA. Da ciò traggo una lezione. Un marchio può essere conosciuto e percepito come italiano, statunitense, inglese o di Marte, anche se l'etichetta rivela la delocalizzazione dei vari processi produttivi. Questa rappresenta però un'informazione rispettosa del cliente. Io, cliente, posso decidere di non essere interessato all'Apollo dello stilista famoso se ritenessi il prezzo non corretto perché parte sostanziale della produzione è avvenuta in paesi che dovessi ritenere a scarso valore aggiunto. Il nostro bislacco sistema, però, pare non tenere quasi mai conto del consumatore, il vero re in un sistema di mercato reale, e tanti politici, giornalisti e pseudo-intellettuali ci sfiniscono con patetiche tiritere sul liberismo selvaggio in Italia. Roberto. Io ritengo che se partiamo dal presupposto che il Made in Italy sia un valore aggiunto, allora è giusto che sia effettivamente inserito in quei prodotti dove la produzione è stata effettivamente fatta in Italia. L'azienda, per avere la possibilità di ottenere un valore aggiunto dall'inserimento del marchio Made in Italy, deve poter dimostrare che il prodotto sia stato realizzato in Italia, almeno per l'80% del suo valore. L'azienda quindi potrà acquistare tessuti o altre materie prime all'estero, ma l'assemblaggio, la produzione, la realizzazione, il confezionamento, eccetera, dovranno essere fatti in Italia. Questo non vuol dire costringere coloro che producono all'estero a dover tornare a produrre in Italia. Significa semplicemente che non potranno beneficiare del marchio Made in Italy. Qualcuno potrebbe obiettare che in questo modo si incentiverebbero le competenze di ingegneria a scapito della pura manodopera, ma un capo di abbigliamento non è come un computer o un telefonino. Per la realizzazione di una giacca, il design è importante tanto quanto il taglio e la cucitura. Quindi la difesa del Made in Italy è un dovere che i nostri governanti dovrebbero sostenere e valorizzare. Alessandro. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.